Ladies and gentlemen, madame et messieurs, signore e signori, date un'occhiatina al vostro orologio, sono le 7 spaccate, qualche secondo alle 7. D'altra parte state ascoltando Rock FM, adesso non è che possiamo partire alle 7 precise, sarebbe veramente poco consono al nostro status politico e sociale di rocker e quindi di esseri umani un po' così, tutti speciali. Chi vi parla è l'Ariele, un ragazzo speciale, il nostro regista, anche stamane, un ragazzo speciale, Mister Spadino. Roberto Fricantoni da Bologna, il nostro rocker di riferimento, anche lui un ometto tutto speciale, ma soprattutto voi, cari amici e care amiche, tutte speciali lì fuori. Inizia la settima puntata del programma denominato Pane, Burro e Rock and Roll, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Programma con una delle sigle più belle della radiofonia italiana. Diciamolo. Diciamole certe cose. Pane, burro e rock and roll. Non nascondiamoci dietro a un dito, via. A Cesare quel che è di Cesare. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non nulla cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Lo specifico è martedì 11 settembre 2007. No, non voglio questa, Spadino, dai. Non iniziamo, ecco, non iniziamo mai la giornata. Subito i primi screzi. Dai, vediamo di vivere questa mattina in diretta fino alle 9 senza un intoppo, se fosse possibile. Vi parlo da Milano, nello specifico da Via Locatelli 1, 20124. E basta, servo la colazione, come si fa, non nei diner sull'autostrada, quello è Chuck Bird, che ci precede tutte le mattine. Serviamo la colazione come si fa nei bar, così normali. Pezzo forte della nostra colazione è la grande musica, quella con la G maiuscola e la M in grassetto. A questo proposito, stamane si inizia con i Police. Beh, chi ben comincia è metà dell'opera, no? Andiamo avanti a luoghi comuni? No, via, ve li faccio ascoltare, che forse è meglio. Yeah. I Police, che iniziano a testa alta stamattina, eh? Se avete bisogno della compagnia giusta per arrivare fino alle 9 del mattino, avete cuccato la frequenza esatta. Cuccato, sto citando il collega che seguirà poi la diretta di Pane, Burro, Rock and Roll, Marco Gravelli, vero trombetta? A volte lo dice cuccato o no? Dopo andiamo a chiedergli se è un ricordo giusto o se stiamo vaneggiando o come è giusto che sia a quest'ora della mattina. Il saluto rivolto sempre ai nostri cari ascoltatori e alle nostre care ascoltatrici. Ieri vi raccontavamo come nuovi marchingegni si stiano impossessando della regia sempre più multimediale del nostro buon Spadino. Queste macchine infernali che ci permettono di capire, di pulsare, di testare, di pulsare non c'entra niente. Il pulsare è un mix tra tastare il polso e testare. Viene pulsare, ma non... è un nuovo vocabolo coniato da me in questo istante. Dovrei smetterla di coniare vocaboli così di prima mattina. Dicevamo, capiamo al volo l'indice di gradimento, come si diceva una volta. Perché siamo in questa nuova missione denominata Davide contro Golia. Questo è il nome in codice della missione militare alla quale partecipiamo noi di Pane, Burro e Rock and Roll, e volendo anche voi là fuori. Basta spargere la voce e dire che di mattina si ascolta Pane, Burro e Rock and Roll. Ieri invece sono arrivati dei dati più ufficiali, dati d'ascolto, no? Quelli che fanno vivere le strutture come la nostra. E dobbiamo ringraziare le migliaia di persone che hanno risposto al telefono dicendo sì, io ascolto Rock FM e mi piace. Grazie mille, sono soddisfazioni. Ce ne sono poche in questa strada del rock and roll, questa è sicuramente una di quelle. Vi ricordo invece il numero di SMS col quale si può interagire, si può avere un tête-à-tête, diciamo, in rigorosa diretta, 335-100-7777. Adesso fate i vostri belli sbadigli, estrapolatevi le cacche dagli occhi e poi quando volete scrivete pure. A noi siamo qui ad attendere. Quello di estrapolarsi le caccole dagli occhi è da contratto con Roberto Fricantoni, ogni tanto dobbiamo dirlo e quindi ci tengo a mantenere la promessa avuta col maestro. Buongiorno maestro. Siamo pronti per l'almanacco o hai qualche sorpresa per quest'oggi? No, dice di no, va bene. Vedremo cosa combinare. Vi ricordo anche la casella di posta elettronica, ariel@radiorockfm.com, come ricordo sempre a inizio trasmissione, magari non per voi della diretta, per voi che state ascoltando in diretta martedì mattina, magari per quelli che riascoltano invece la puntata su radiorockfm.com, con più calma, hanno già il loro computer bello acceso e ci possono scrivere per l'appunto ad ariel@radiorockfm.com. Il buon Donovan viene a servirvi il cappuccino stamane. Sunshine Supermoon. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. We'll be right back. tutto prosegue liscio come l'olio nella diretta di questo martedì a Pane, Burro e Rock and Roll, anche perché intravedo il maestro Roberto Fricantoni con un grosso plico di fogli, mi puzza di almanacco. Buona giornata, Frick. Buona giornata a lei, dottor DJ, mister Ariel. Dottor Ariel. Saluti pure i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Lo faccio senz'altro con entusiasmo. Ciao amici radioascoltatori e radioascoltatrici. Beccatevi anche quest'oggi il foriero di buone notizie almanacco del giorno che fu. Gettiamo della positività leggendo i fatti della storia e quest'oggi, in questo 11 di settembre, partiamo dal lontano 1297. Laddove avvenne la battaglia di Stirling Bridge. Ah, che battaglia memorabile! Dove gli scozzesi di William Wallace vinsero gli inglesi in una battaglia strepitosa. Ma William Wallace quello là? Sì, quello che poi ispirò Braveheart di Mel Gibson. Hai capito, che si truccava in faccia, libertà, sì. Giù tutti a combattere. Sì, sì, sì. Esatto, diamoci da fare per la nostra libertà e questo è un principio sacrosanto. La libertà va difesa, va conquistata con le unghie, con i denti e con la spada se occorre. Passerei ad un'altra notizia, questa volta datata 1847. Mi sono lasciato un po' andare. Ma faccia libertà. Come vuole, guardi, la paghiamo per questo. 1847. La più nota canzone di Stephen Foster, O Susanna, la famosa O Susanna, non piangere per me. Che non credo, sia stata composta in italiano. No, infatti era. Però questo per farvi capire inglese. Che se la conosciamo in italiano, immaginatevi cosa può essere. Viene eseguita per la prima volta in un saloon di Pittsburgh, Pennsylvania. Esatto, in Pennsylvania. E volevo aggiungere solo questo, che mi piacerebbe avere un decimo, che dico un decimo, anche solo un centesimo, un millesimo dei diritti d'autore di questa O Susanna, sia nell'originale che nella versione italiana. Smetterei molto volentieri con lei, Frick, ne parleremo più tardi magari. Passiamo però al 1951, notizia sì. Quasi nautica. Infatti l'11 settembre del 1951 Florence Chadwick attraversa la Manica a nuoto dall'Inghilterra alla Francia. Alla faccia. Diventando così la prima donna, la prima signora, sì. La first lady ad aver compiuto la traversata sì. In entrambe le direzioni. Perché c'è da dire che una volta arrivata Andata. Nel suolo francese, poi dopo è tornata a casa perché non si è ricordata. Piaceva. Ma no, si è ricordata forse, ma chi lo sa, di non avere amiche, di non avere impegni. Cosa faccio qui in Francia? Quasi torno a casa. E segnò ed ecco così la sua fortuna. A volte tornare può servire a qualche può cosa. Può servire, infatti. E chiudiamo. Sì, chiudiamo senz'altro con una notizia doverosa di triste cronaca. 11 recente. Settembre 2001. Non potremmo non ricordarlo, attentato terroristico alle Torri Gemelle negli alle Stati Torri Uniti. Gemelle negli Stati Uniti, dove vengono dirottati 4 aerei di linea, secondo le fonti ufficiali, dirottati da terroristi islamici. Anche se non tutti concordano con questa tesi, e qui abbiamo un altro mistero, un altro dei tanti misteri. Fricantoni misteri... non sopporta i misteri. Ma no, infatti abbiamo ricordato prima in sede privata anche tutti questi misteri sì. Italiani legati alla vicenda Moro, legati alla vicenda Brigate Rosse, insomma tutti questi misteri. Basta, insomma ditecelo, questo pensare che il popolino non possa reggere, non possa sopportare questi misteri. Lanciamo un appello da Pane, Burro e Rock and Roll, vogliamo sapere, basta con i misteri, diteci come sono andate le cose. Trarremo le conseguenze da soli. Sapremo trarre le nostre conseguenze con la nostra testa, con la nostra sensibilità. Yeah. Metropolitana ti stressa? Hai bisogno di sedare i tuoi timpani? Non ne puoi proprio più di Tiziano Ferro? E Raffaella canta a casa mia. E Raffaella... All'Eleonora Duse troverai pace, relax e quel pizzico di comprensione che ti manca. Ciao raga, sono Roberto Fricantoni e anch'io, quando ho bisogno di staccare la spina, vado all'Eleonora Duse, grande clinica. Eleonora Duse, metti un'oasi nel tuo deserto. Amici, ve lo dico dal cuore, sinceramente, io all'istituto Eleonora Duse, alla clinica Eleonora Duse, ma cosa dico? Al paradiso Eleonora Duse, mi sono sempre trovato benissimo, anzi, benerrimo! Sedatelo, sedatelo! Prendetelo, immobilizzatelo! Mentions the word addiction in certain companies. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. We'll be right back. a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met. Gentlemen, Black Rose, che roba ragazzi, Rock FM. She Talked to the Angels, teneri, teneri come solo dei rocker sanno fare. Black Rose, che ci portano al termine della prima mezz'orettina di Pane, Burro e Rock and Roll, proprio dell'inizio, inizio del tutto. Anche quest'oggi faremo sorgere il sole, anche quest'oggi faremo cominciare il traffico, anche quest'oggi vi permetteremo di scendere il cane. Un saluto ai nostri gruppi d'ascolto che pian piano si mettono in fila al nostro numero di SMS 335 100 77 77. Diamo il benvenuto al gruppo d'ascolto Ascensoristi, rappresentato nello specifico da Mirko, che mandava un saluto ad Allegra e Sara di Recanati. Bella lì, ciao ragazze. Da Pane, Burro, Rock and Roll, che torna tra pochissimo. Restate lì. Mi hanno chiesto di fare uno spot. Uno nuovo. Pane, Burro e Rock and Roll. Vuoi dire che per una volta il prodotto è migliore di quello che dicevate in pubblicità? Ti piace tutto questo, eh? Mi piace invitare la gente a sorridere.